Spesso il dubbio nell'investire ho incontrato. Era il PIL strozzato che ci addoglia. Era l'economia dalla voglia scarsa. Era lo spread troppo elevato. Bene non seppi, fuori del consiglio, che largisce il saggio due di denari. Era l'acuta e avveduta Rosciani, con Meazza, meticoloso e molto oculato. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. La nostra relazione è terminata, ma ancora col tuo ricordo mi tormenti. Io credo di aver perso i sentimenti, e nonostante che fra noi due l'intesa non sia mai stata così esagerata, c'era un'intesina, diciamo. Buongiorno Deborah. Adesso scomodare Elio e le storie tese per arrivare a intesa, intesina. Sono le nostre intesubi. Solite finezze. Guarda, ci vuole anche proprio del genio in certe cose. Ringraziamo Marco Lombardo e la pazienza con la quale ha cucito, esatto, questo la puntata di stamattina. Avvio e la puntata di stamattina, perché sarà una puntata composita, lo diciamo subito. L'abbiamo dovuta ricucire proprio partendo questa mattina presto, perché è arrivata questa operazione di Intesa San Paolo su Ubibanca, che ha scompaginato un po' le carte e anche tutte quelle convinzioni che circolavano da tempo sul mercato, che ipotizzavano l'arrivo di un'operazione di risico bancario nel nostro paese, ma non è andata esattamente come molti pronosticavano, perché si ipotizzava di questa operazione di Ubibanca con il Banco BPM. Invece ieri sera a sorpresa è arrivata l'offerta di scambio di Intesa San Paolo su Ubi. È molto prematuro naturalmente parlarne nel dettaglio, a prescindere dalle condizioni che sono state dettate da Intesa San Paolo per questa operazione. Tutte le ripercussioni le conosceremo solamente strada facendo, ma noi intanto stamattina possiamo raccontare un po' quello che sappiamo e qual è anche la percezione del mercato rispetto a questa operazione. Però abbiamo anche mantenuto i temi che avevamo promesso, per cui dobbiamo sbrigarci a partire, quindi che cos'altro affronteremo, caro allora Mauro? Dopo aver approfondito, anzi prima di approfondire quello che cambia per tutti noi o potrebbe cambiare per tutti noi con questo grande rimescolamento di carte in ambito bancario, vogliamo occuparci, così come era stato promesso, del bonus bebè, perché il bonus nido per la precisione, perché abbiamo segnalato ieri, sono state diffuse le istruzioni dell'INPS. Allora noi abbiamo scomodato un esperto di valore mondiale come sempre per le banche, però, farci riassumere. Beh sì, abbiamo questa mattina abbiamo un parterre praticamente da fuochi d'artificio, per così dire. Abbiamo un esperto di valore mondiale per il bonus nido e più tardi, cioè dopo aver aperto un'ampia finestra sulla vicenda Intesa, Ubi e dintorni, perché sono molte le banche che poi vengono interessate da questa offerta. Allora, dopo questa parte, diciamo, dedicata alle banche, parleremo di opzione donna, cioè la possibilità accordata alle lavoratrici di andare in pensione prima a certe condizioni. E anche in questo caso, naturalmente, esperti di valore mondiale, esperte ed esperti di valore mondiale dalle 11.30 in avanti. Come prima cosa, però, Deborah, per non por tempo in mezzo, sì? Andrei subito alle questioni del bonus nido con Matteo Prioschi, che ci aiuta, collega del Sole 24 Ore, già in collegamento. Buongiorno Matteo. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Abbiamo un inserto audio molto importante per centrare l'argomento, ascoltiamo. L'Italia è uno dei paesi avanzati in cui le diseguaglianze sono più marcate e per questo la legge di bilancio prevede un capitolo importante a sostegno di welfare e famiglia. Le misure sono importanti, varie, come quello ad esempio che riguarda la gratuità degli asili nido, una misura molto importante non solo dal punto di vista del welfare e dell'eguaglianza, ma anche dal punto di vista del sostegno all'occupazione femminile. La misura sarà in vigore già dal 1 gennaio e consentirà la sostanziale gratuità degli asili nido per la maggioranza, la grande maggioranza delle famiglie italiane. E allora era il ministro dell'economia Roberto Gualtieri durante un'audizione sulla manovra di bilancio davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato lo scorso novembre. Aveva promesso la totale gratuità delle rette degli asili nido, però diciamo una promessa un po' difficile da mantenere. Ha ragioni fatto quello di gettito, che poteva. Hanno un po' corretto al ribasso questo annuncio, giusto Matteo? Perché è vero che ci sono più soldi, più risorse per il bonus nido 2020, però la gratuità non è stata poi, non ha trovato poi traduzione pratica, è giusto così Matteo? Sì, esatto, il bonus nido più generoso, così come anche il bonus alla nascita, il bonus bebè, ricordiamo, anche quello arrivato alla circolare ieri dell'INPS con tutte le indicazioni, sono diventati più ricchi e la novità principale di queste due misure quest'anno è che vengono dati a tutti i richiedenti indipendentemente dall'ISEE, o meglio, gli importi sono modulati in base all'ISEE, quindi diciamo alla ricchezza del nucleo familiare, ma anche le famiglie più ricche comunque lo potranno avere anche se in misura minore rispetto a quello meno abbienti. E si va da un importo minimo di 136 euro mensili, 136 euro e 37 centesimi, cresce naturalmente se ci sono degli ISEE invece più elevati. Si arriva fino a 1500 euro per le famiglie con ISEE sopra i 40.000, sono i dati che abbiamo nei nostri appunti. Soprattutto mi interessa, Matteo, però riepilogare i canali, esatto, attraverso i quali si può chiedere questo bonus. Allora, i canali sostanzialmente sono il sito internet dell'INPS o ci si affida ai patronati, i principali due canali verso cui chiedere questo aiuto. Ecco, la cosa a cui vi volevo porre attenzione quest'anno è appunto, siccome non c'è più il vincolo dell'ISEE, bisogna fare attenzione perché mentre l'anno scorso in assenza di ISEE le domande venivano respinte, quest'anno se uno non presenta l'ISEE la domanda viene comunque accettata ma viene erogato l'importo minimo, quindi 1500 euro all'anno, e così facendo magari la famiglia rinuncia, perde parte del bonus che appunto può arrivare a 2005 o a 3000 euro all'anno in base al reddito. Però qualora, tu dici se il reddito familiare, appunto, se il reddito complessivo della famiglia, quello che poi si va a calcolare nell'ISEE, quindi compreso il patrimonio, eccetera, fosse già un po' consistente, diciamo, tanto vale non andare a presentare l'ISEE e prendere l'importo minimo. Esatto, se sta sopra i 40.000 euro si può anche non presentare l'ISEE. Se si sta sotto, invece, è opportuno farlo, anche se non obbligatorio. Se non lo si fa, si perde, diciamo, parte del bonus. Esatto. Matteo, c'è poi la possibilità... Sì. Scusate, di integrarlo eventualmente, cioè se uno si accorge poi che si è dimenticato l'ISEE e aveva diritto a un bonus più elevato, può integrare la domanda presentando l'ISEE, ma diciamo la maggiorazione dell'assegno partirà solo da quel momento. Le mensilità già erogate saranno, diciamo, non saranno più ritoccate. Questo bonus nido, Matteo, mette a disposizione delle famiglie italiane che ne hanno necessità 520 milioni di euro e sono 190 milioni in più rispetto al budget del 2019. Ma per chi farà domanda significherà partecipare ad un click day, nel senso chi tardi arriva male alloggia, oppure comunque per chi vorrà prendersi un po' di tempo per leggere tutte le istruzioni non rischia di perdere il contributo? Allora, dovrebbe riuscire a coprire tutte le richieste, come già avvenuto in passato. A questo proposito, proprio ieri l'INPS ha diffuso una nota in cui rassicura chi ha chiesto l'ISEE, cioè il bonus asilo nel 2019, che tutte le domande accettate hanno copertura di fondi e quindi saranno pagati tutte le richieste che verranno fatte. Mentre nei giorni scorsi c'erano state polemiche perché alcune famiglie sostenevano di aver avuto bloccato il rimborso del bonus. Comunque di sicuro è che prima si fa domanda e più possibilità si hanno di star tranquilli e quindi di accedere a questo aiuto. Comunque la procedura prevede che una volta presentata la domanda la persona indica anche quante mensilità pensa di richiedere, cioè se pensa di coprire i 10 o gli 11 mesi, gli 8 mesi, a quel punto l'INPS blocca le risorse fondi destinate, certo. Quindi una volta che uno ha fatto la domanda e diciamo è bollinata, può stare tranquillo. Certo che se uno fa domande più avanti nel tempo c'è il rischio che i fondi si esauriscano, certo. Però al momento non è mai... Vale l'ordine di presentazione cronologico, come tu giustamente ricordi, esatto. sul Sole 24 Ore. Allora, l'indirizzo, diciamo, internet comune per tutti è quello dell'INPS, quello da cui partire, www.inps.it, INPS, mi raccomando, attenzione, perché in queste operazioni poi di massa a volte si creano anche dei siti farlocchi, dei siti truffaldini, ecco. Non qual era quello di cui abbiamo parlato? Preferirei tanti neanche nominarlo, ecco, INPS con la N di Napoli, tanto per capirci, però, come ci ricordava Matteo Prioschi, anche rivolgersi ai patronati può essere una utile risorsa in questi casi. C'è anche un altro canale di contact app. Center, mi pare. Esatto, ma c'è anche l'app IMSS Mobile, dove c'è la funzionalità bonus nido, alla quale si può accedere. Naturalmente, magari tu, che ne so, sei in giro, in questo momento vuoi informarti al volo su come funziona, e puoi farlo anche con una modernissima applicazione. Matteo? Sì, esatto. Quella poi è molto utile, è stata messa a punto dall'IMSS, in particolare per la presentazione delle ricevute mensili, perché il meccanismo del bonus prevede appunto che la famiglia faccia la domanda viene accettata e poi il pagamento viene effettuato su base mensile a fronte della presentazione delle ricevute, del pagamento effettivo della retta dell'asilo. Quindi periodicamente le persone devono caricare nel sistema dell'INPS queste ricevute, e l'app è uno degli strumenti messi a punto appositamente per semplificare questa procedura. Grazie a Matteo Prioschi. Allora, ins.it, sono state diffuse le istruzioni per accedere al bonus nido più generoso e auspichiamo possa coprire tutte le richieste quest'anno. Naturalmente tutti i particolari anche sul Sole 24 Ore, sul sito del Sole 24 Ore, oltre che qui a Due Denari. Matteo resta naturalmente a disposizione, perché via via in queste settimane andremo a monitorare come sta andando questo bonus. Grazie ancora a Matteo Prioschi. Grazie a voi, alla prossima. E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio. Edizione straordinaria! Eh sì, è decisamente un'edizione straordinaria. Questa mattina anche noi abbiamo un po' scombinato la nostra trasmissione per cominciare a raccontare ai nostri ascoltatori cosa succede nel sistema bancario italiano. Con questa operazione a sorpresa annunciata ieri in tarda serata, con cui Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta di scambio, un'operazione non ostile, ma è stato anche precisato non concordata, con cui si appresta ad integrarsi con UbiBanca. Nascerà probabilmente uno dei colossi bancari europei, forse il settimo gruppo in Europa, secondo i calcoli che sono stati fatti in questo momento. Un'operazione che si dice fatta carta contro carta, perché Intesa offrirà un determinato numero di azioni contro un determinato numero di azioni, appunto, di UbiBanca. Ma per tutte le tecnicalità abbiamo scomodato, se ha potuto dormire un paio d'ore stanotte, il capo della finanza del Sole 24 Ore, Marco Ferrando, che salutiamo. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci qua. Allora, andiamo un po' a spiegare intanto i dettagli di questa operazione, le cui ripercussioni in borsa si vedono già chiaramente, perché il titolo UbiBanca ha letteralmente spiccato il volo, più 22,11% in questo momento. Va bene anche Intesa San Paolo, più 1,7%, ma tutta questa operazione di risico ripunta i riflettori anche su altri grandi gruppi che in realtà si ipotizzava nei mesi passati potessero essere direttamente coinvolti in operazioni di aggregazione. Il Banco BPM era proprio questo, più 6,26% a Piazza Affari in questo momento, un calo netto invece per Biper Banca, che pure è chiamata in causa nell'operazione, non so se suo malgrado, perché si appunto è annunciato che dovrà sostenere un aumento di capitale di 1 miliardo per acquisire almeno 400-500 sportelli bancari da Intesa se l'operazione con Ubi andrà avanti. È tutto veramente molto complesso, ma che cosa ci suggerisce quello che è successo nelle ultime ore? Suggerisce che quello che immaginavamo da tempo si sta verificando forse anche un po' più in fretta di quello che immaginavamo, nel senso che gli occhi erano puntati su Intesa non meno che su altri, invece è stata la prima banca italiana a muovere appunto il primo passo in una direzione, come dicevi giustamente, non così scontata, nel senso che per anni intorno a Intesa si è ragionato di una possibile operazione fuori dall'Italia, perché Intesa è già leader in Italia, quindi in teoria gli addetti ai lavori si aspettavano un'operazione oltre confine, invece ha attraversato la strada di fatto, perché Ubi, una delle sedi Ubi è proprio al di là di, della sede di Casa dei Fasti via Monte di Pietà, e ha trovato in una banca, se vogliamo, cugina, visto i legami soprattutto culturali che le vedono protagoniste, ecco, ha trovato lì il suo approdo. È un'operazione carta contro carta a un prezzo oggettivamente vantaggioso, e così per i soci Ubi, e così si spiega l'andamento di borsa che dicevi, perché ovviamente il prezzo si è allineato, il prezzo di borsa si è allineato all'offerta di Intesa, che rispetto al prezzo con cui aveva chiuso venerdì, prima che anche ieri Ubi presentasse il piano industriale, corrisponde a uno sconto di quasi il 30%, un sovrapprezzo quasi del 30%. Quindi sostanzialmente se uno è socio di Ubi dovrebbe essere favorito, insomma, in questa operazione di Intesa. Ma dal punto di vista meramente contabile proprio, sì. Nell'immediato sì, perché la proposta è quella di ricevere 17 azioni della nuova banca che nascerà, sempre che nasca, ma insomma è probabile che nasca, visto appunto anche i prezzi sul tavolo, 17 azioni della nuova banca per ogni 10 azioni dell'attuale Ubi. E quindi effettivamente, in realtà non è in questo rapporto la convenienza, ma nel prezzo che dicevo prima, che è circa il 28% in più di quello che valeva venerdì, quindi nell'immediato l'interesse c'è, e poi è chiaro che si apre tutta una sfida industriale, diciamo, di creazione del valore sul medio e lungo periodo, che si vedrà. Però il mercato è contento, anche perché è chiaro che, citavate per esempio Banco BPM che sale, il ragionamento che fanno tutti è che dopo questa prima mossa ne arriveranno delle altre, perché ovviamente l'asticella si alza per tutti. Ubi era la terza banca per capitalizzazione, se si sposa con la prima di fatto si scarrucola tutti in avanti, quindi i piccoli diventano ancora più piccoli e i grandi si allontanano, quindi inevitabilmente qualcos'altro dovrà capitare. Allora, dicevamo di Biperbanca, che invece perde 7,5 punti a Milano, perché anche questa banca è tirata in ballo in questa operazione, perché contestualmente all'iniziativa lanciata su Ubi, Intesa ha fatto sapere di aver siglato anche un accordo con Biperbanca per cederle fra i 400 e i 500 sportelli sul territorio, concentrati in particolar modo nel nord Italia. Siccome per fare questo Biperbanca deve mettere sul piatto 1 miliardo di euro, è chiaro che l'aumento di capitale è sempre una notizia colta male dal mercato, ma anche il settore assicurativo è chiamato in causa, perché Unipol ha sottoscritto con Intesa, e quindi da qui anche notiamo come Messina non si sia proprio mosso negli ultimi 2 giorni, ma la stava, immaginiamo, confezionando da tempo questa idea, questa operazione. Intesa ha sottoscritto un accordo anche con Unipol per fare in modo che questa possa acquisire rami d'azienda nel settore assicurativo da Ubi, e quindi fare in modo che anche la regolamentazione possa promuovere tutta l'operazione. Poi su questo sentiremo anche un analista, ma volevo sentire anche la tua, Marco, su questo punto. Sì, è così, il coinvolgimento di Viper e Unipol risolve, o perlomeno spiana la strada su tutti gli aspetti antitrust, perché è ovvio che senza questa cessione di più o meno un terzo del perimetro di Ubi, la posizione degli sportelli a Viper e il ramo assicurativo di Ubi a Unipol, il gigante diventava un po' troppo gigante per piacere all'antitrust. Quindi sicuramente sono ritocchi che faranno piacere al regolatore, ma anche dimostrano un po' l'economia di scala e l'efficienza che va fatta sia sul fronte bancario che su quello assicurativo, perché comunque con i tassi così bassi per così tanto tempo tutti sono alla disperata ricerca di efficientare le reti. E quindi è chiaro che anche Unipol, che potrà contare su una base, diciamo, sportelli maggiore, avrà dei benefici. E peraltro Ubi aveva in corso una gara per trovare il partner assicurativo che non stava trovando, quindi sì, così facendo di fatto si sblocca anche quel passaggio lì. Tra l'altro stavo ricordando che oggi Intesa aveva in programma anche una conferenza stampa a Milano per raccontare della recente intesa siglata con RBM Salute, e credo che invece quella conferenza forse oggi salterà, perché ce n'è una nel pomeriggio in cui Messina comunicherà con i giornalisti appunto i dettagli dell'altra operazione leggermente più grande fatta nelle ultime ore. Allora, io devo fare una raccomandazione, cioè anzi do un consiglio agli ascoltatori e alle ascoltatrici, se volete approfondire i dettagli di tutte queste vicende e del di questo risico bancario che si è fatto attraversando la strada, comincia attraversando la strada, come ci ha ricordato Marco Ferrando. Innanzitutto vi consiglio il numero del Sole 24 di oggi, perché Marco e i suoi colleghi, i nostri colleghi che si occupano di finanza, hanno composto una serie di pagine tutte da leggere avidamente, a cominciare dalla offerta di Intesa per arrivare al piano di UbiBanca presentato proprio al 2022. Abbiamo anche un altro esperto di valore mondiale in collegamento, cara Deborah, sì. E si tratta di Antonio Amendola, portfolio manager di A come A. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari. Buongiorno a tutti, buongiorno. Io faccio subito una domanda, questa sembra essere una buona notizia, nel senso che se sentiamo sempre dire che le banche italiane hanno bisogno di essere un po' più strutturate, allora se si crea un soggetto più grosso dovrebbe essere una buona notizia anche per noi correntisti qualsiasi, o richiedenti prestiti qualsiasi, o richiedenti mutui qualsiasi. È così, Amendola, o sono un po' troppo semplicistico, anzi sempliciotto? No, no, assolutamente. Allora, innanzitutto, come avete anche ricordato voi, il settore bancario necessita di integrazioni, perché da troppi anni si va avanti soltanto a taglio costi e c'è sempre maggiore difficoltà a creare ricavi, ecco. Sicuramente la creazione di un campione europeo come quello che può essere dalla Intesa UBI non solo ha senso a livello industriale, quindi per gli operatori di borsa, ma anche per i correntisti, perché in uno scenario del genere sicuramente ci sarebbe più spazio per concedere prestiti più concorrenziali e si eviterebbe con la frammentazione dei player italiani, c'è il rischio di dumping da parte dei più piccoli. In questo modo invece si va a razionalizzare il mercato, offrire un servizio migliore e a tutelare anche il risparmiatore. Si apre la primavera di un risico bancario, mi aveva detto a microfoni spenti Amendola, e questo appunto è uno stimolo che vorrei darle in questo momento per un altro commento rispetto anche alle considerazioni che abbiamo fatto prima con Marco Ferrando. Fatta questa operazione, a meno che vada avanti, perché adesso sta parlando anche Carlo Messina e sta dicendo l'unione fra Intesa San Paolo e UbiBanca, se sarà completata, fa partire il consolidamento bancario in Europa, e sono orgoglioso che l'Italia si muova per prima in questo processo, in questo 2020, ma quali altre operazioni potrebbero essere possibili, a patto che questa appunto si concluda e proceda con serenità? Allora, innanzitutto vorrei dire che se questa operazione andasse in porto si certificherebbe la bontà del sistema finanziario italiano. Questo perché nel momento in cui il regolatore europeo dovesse dare l'ok all'operazione dopo tanti anni dove ci è stato chiesto di ridurre gli NPL, di fare tanti sacrifici, vuol dire che finalmente siamo arrivati al momento in cui possiamo fare delle integrazioni sia nazionali che, perché no, anche internazionali. Sicuramente questa operazione mette pressione da un lato agli altri player grandi come può essere Unicredit o comunque le altre banche europee della stessa scala di Intesa, ma soprattutto ai player più piccoli, e che possono diventare preda di player internazionali o player italiani che sono rimasti indietro dal punto di vista dell'aggregazione. Certo, adesso salutiamo Ferrando. Mauro vuole fare una domanda appunto a Marco. Volevo solo commentare alcune domande degli ascoltatori che chiedono cosa succederà ora alle azioni di Intesa San Paolo. Noi non lo sappiamo. Quello che possiamo dire è che generalmente in questo momento e in momenti come questo è la speculazione che muove i titoli, e quindi è una speculazione molto positiva su tutto il settore, per cui certamente oggi chi ha titoli in portafoglio ha largamente beneficiato di tutto quello che si è detto, per cui in prospettiva non abbiamo la sfera di cristallo e non possiamo saperlo. No, infatti non me la sento di chiedere anche questo Marco Ferrando, però una cosa ce la chiedono in tanti e me la chiedo pure io: i tempi, cioè quanto tempo ci vorrà per vedere questa operazione conclusa, se naturalmente si concluderà positivamente, Marco? Oggi avremo tutti i dettagli, quindi al momento le informazioni non sono certe. Sicuramente la premessa è che è un'operazione che va fatta in fretta, ed è anche uno dei motivi per cui alla fine Intesa è nata Subi, perché nei fatti è un'operazione molto più facile dal punto di vista culturale, linguistico, regolatorio rispetto a qualunque altra ipotesi transnazionale di cui parlavamo prima. Questione di settimane, mesi, e poi è chiaro che ci sarà tutto un tema di offerta, quindi di finestre che si aprono per consegnare le azioni, insomma, tecnicalità. la prima cosa che aspettiamo è la risposta di Ubi, perché formalmente non si tratta di un'offerta ostile, ma da quello che è dato sapere è stata un'offerta ovviamente non concertata, che ha colto di sorpresa la banca, e quindi anzitutto i primi a dover rispondere saranno loro. Comunque parliamo, ripeto, di settimane e mesi, per un motivo essenzialmente: le banche hanno bisogno di fare efficienza il più in fretta possibile. No, è un'operazione talmente a sorpresa che pare non ne sapesse nulla neanche il presidente di Banca Intesa San Paolo, Bazzoli, che anche un pochino piccato stamattina ha detto: no, credo che Messina abbia fatto bene a non dirmi niente, ma quel credo messo lì davanti alla frase, insomma, lascia presupporre che forse non è stato proprio contento, allora, di essere stato lasciato fuori. Io ho capito che dobbiamo leggere avidamente, come sempre bisogna fare, le pagine di Finanza e Mercati sul Sole 24 Ore. Grazie Marco Ferrando, grazie Marco, ti lasciamo tornare all'attività di redazione. Secondo te come si chiamerà la nuova banca? A me piace Ubi Intesa, perché è più facile che Intesa Ubi. Beh, anche da dire, Intubi da... sembra una roba un pochino così, poco facciamo elegante. Facciamo partire adesso la gara, ma insomma, vabbè, a parte questo, se non avessi capito bene che cosa è successo stamattina. Sì, c'è una, come dire, una proposta di fusione, di accorpamento tra Intesa e Ubi. Te la racconto adesso, un'altra volta, ma dai. Perché mi vuoi aggiornare finalmente sui mercati finanziari? Non c'è solo questa notizia. Siamo ce ne già sono in ritardo. 10 e lode come sempre. Grazie. Come tutte le mattine vi trovo di una preparazione adamantina. Due di denari. Dove eravamo rimasti? Cara Deborah, eccoci. Eravamo rimasti che l'opzione donna non c'era, ma invece adesso c'è. Come dire, abbiamo con la legge di bilancio esteso la possibilità del pensionamento anticipato solo per le lavoratrici, solo per le donne, si chiama appunto opzione donna, a quelle lavoratrici che, fai attenzione, al 31 dicembre scorso, 2019, avessero compiuto i 58 anni di età se sono lavoratrici dipendenti, 59 se sono autonome. Non è carino dire l'età delle donne, vabbè, per oggi farò un'eccezione. E che naturalmente abbiano maturato almeno 35 anni di contributi. Però tutto questo anticipo, cara Deborah, cari ascoltatrici, sì, vi costerà nell'assegno pensionistico, perché dovrete optare per farvi liquidare la pensione con le regole di calcolo del sistema cosiddetto contributivo. Esperti ed esperte di valore mondiale, come sempre a Due di Denari, Francesca Barbieri, che abbiamo subito richiamato in studio per parlarne. Buongiorno Francesca. Buongiorno a tutti. E Antonello Orlando, collegato con noi telefonicamente. Buongiorno dottor Orlando. Bentrovati, buongiorno. Allora, questo tipo di opzione, Francesca, è un ritorno, perché già esisteva, poi era stata, come dire, fatta cadere, era stata chiusa e adesso è stata riaperta. Sì, esatto. Possiamo dire che Opzione Donna ha raggiunto i 15 anni di vita perché è stata introdotta dalla legge 243 del 2004. Quindi la legge di bilancio di quest'anno l'ha prorogata, come dicevi tu prima Mauro, per chi entro la fine del 2019 abbia raggiunto i 58 anni di età, nel caso di lavoratori dipendenti, e 59 per le lavoratrici autonome, certo, solo per le donne ovviamente. E purtroppo ce ne faremo una ragione, però c'è un motivo anche di voler pareggiare in qualche modo, esatto, anni e carriere che magari possono subire degli intoppi, quindi, dei ritardi, purtroppo ancora dei rallentamenti connessi proprio alla condizione femminile nel lavoro. Scusa, accanto al requisito anagrafico c'è quello dei 35 anni di contributi, quindi questo permette di anticipare l'uscita, perché per una donna, diciamo, la pensione anticipata è con 41 anni di contributi e 10 mesi, a prescindere dall'età. Quindi con questo requisito anagrafico abbinato ai 35 anni di contributi si riesce ad anticipare. E anche rispetto alla pensione di vecchiaia, ricordo che il limite è di 67 anni di età. Antonello Orlando, il calcolo interamente fatto con il sistema contributivo implica una decurtazione del trattamento pensionistico di che misura? Ecco, questo purtroppo purtroppo avere una risposta universale è molto complesso, certo, perché bisogna in noi riguardare tutti i verdi anni dall'inizio del lavoro da parte di queste assicurate. Possiamo dire questo: maggiori sono gli anni ante 1996, più probabilmente il taglio sarà penalizzante. Nei grandi numeri delle statistiche abbiamo sempre approssimato, anche nelle varie pubblicazioni del Sole, una forbice compresa dal 20 al 40% di penalizzazione, che peraltro è stabile, quindi vuol dire peraltro che questa conversione al metodo contributivo, una volta che penalizza la pensione, non viene mai più riparata, nemmeno quando l'assicurata raggiunge l'età della vecchiaia, quindi non si stringono i denti per un periodo abbastanza breve, ma vita natural durante e poi eventualmente anche per i superstiti. Quindi naturalmente c'è una decurtazione, diciamo così, che va calcolata, come dire Francesca, in prospettiva, perché ci si ritira prima, certo, però poi si va anche a soffrire questa riduzione dell'assegno, magari certo, per un tempo lungo. Adesso, grazie al cielo, dico sempre io, c'è un rischio longevità, cioè il rischio di campare più a lungo, mi sembra una buona notizia, però vuol dire che avremo un assegno, avrete un assegno più piccolo. Un assegno di importo più basso. E infatti volevo rispondere all'ascoltatore che subito ci mette un pizzico di malizia sul ragionamento che stiamo facendo, che poi le donne vivono in media 5 anni più degli uomini. È vero, il processo demografico è abbastanza evidente in questo senso. Che senso ha mandarle prima in pensione? Non ce le manda nessuno, è una richiesta in totale autonomia che una donna fa, di avere questa possibilità di avere appunto la pensione anticipata, e paga anche un prezzo abbastanza significativo in termini di decurtazione dell'assegno potenziale se arriva a regime. Ho fatto l'editoriale pure stamattina. Bravissima, perché sei arrivata giusta ecco, a 11 ore, 45 minuti e 32 secondi, è il momento del traffico. Hai qualcosa da dire in tema di soldi? Allora, dillo a Due di Denari, la nuova rubrica in cui ogni pensiero conta. Domande, opinioni, commenti a ciò che va in onda e suggerimenti per le prossime puntate. Inviaci una nota vocale al 349-238-6666 nel corso della diretta. Oppure scrivici in qualsiasi momento a 2didenari@radio24.it. Due di Denari. Allora, dedicata a tutte le ascoltatrici pensionate, pensionande, aspiranti pensionate, però attenzione, vorrei così frenare gli entusiasmi: c'è l'opzione donna, è vero, è tutto confermato, sta nella legge di bilancio, però attenzione, perché dal momento della domanda non è che la pensione decorra immediatamente o dalla settimana successiva. Francesca, aiutami, Francesca Barbieri. Sì, esatto, allora per la decorrenza della pensione si dovranno aspettare 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 per le autonome, quindi requisiti maturati entro la fine del 2019 e poi c'è da aspettare questo periodo di tempo. Quindi si fa la domanda, e se si è maturato entro il 31 dicembre del 2019 si fa la domanda, e però da lì si comincia a prendere l'assegno al 2021 di fatto. Ma 12 mesi. Da quando è stato perfezionato il requisito? E per le lavoratrici della scuola la domanda di cessazione dal servizio va presentata entro il 28 febbraio del 2020. E quindi stiamo proprio, diciamo, ai giorni caldi per queste lavoratrici. Antonello Orlando, cosa dobbiamo ancora precisare su questi tempi di erogazione materiale dell'assegno? Allora sì, da un lato, come perfettamente sintetizzava la dottoressa Barbieri, con cui ogni tanto abbiamo il piacere di incrociare le penne insieme, la decorrenza della finestra si attiva una volta maturati i requisiti, quindi in realtà se io arrivo alla meta con già qualche mese dove avevo cristallizzato i 58 anni e i 35 di contributi nel caso dei dipendenti, non devo aspettare poi 12 mesi, ma devo fare il conto di questa finestra a partire da quando avevo già incasellato entrambi i requisiti, quindi non è dal momento della domanda ma dalla maturazione dei requisiti. Forse un elemento importante, al di là del spesso dei ritardi a cui abbiamo assistito nella liquidazione degli assegni, può riguardare la composizione di questi 35 anni di contributi, che può poi causare indirettamente dei ritardi, perché Opzione Donna è diciamo una donna molto molto integralista, molto esigente e gelosa, fortemente monogamica, perché i suoi 35 anni li vuole ordinariamente tutti accantonati nella stessa gestione. Quindi mentre ormai per la vecchiaia e l'anticipata noi siamo abituati al cumulo contributivo che consente, esatto, quello che in pratica ci consente di avere spezzoni di contributi pagati magari in gestioni diverse, che so, prima nei parasubordinati, poi sì, potremmo averli nei lavoratori dipendenti, tanto per fare un caso così molto, che può essere molto frequente, questo non è possibile con Opzione Donna? Assolutamente, fra l'altro il cumulo dal 2017 accoglie anche fra le sue braccia le casse professionali, quindi è veramente un party eterogeneo e composito. Invece Opzione Donna è più composta, più raccolta, lei chiede una grande coerenza contributiva e non ammette alla sua festa la gestione separata, i cui anni accantonati in nessun modo contano per arrivare ai 35 anni, è l'unica eccezione rispetto al fatto che richiede un'unica gestione, avviene quando la dipendente è anche stata una cosiddetta autonoma, cioè nel gergo dell'INPS autonomi si è quando si è iscritti alla gestione artigiani o commercianti. Quindi se io ho 20 anni di contributi da dipendente e altri 15 anni non sovrapposti ovviamente nello stesso periodo da artigiana, posso straordinariamente cumulare le due gestioni per arrivare ai 35, però con una sorpresina, perché se anche per esempio ho una prevalenza da dipendente ci vai un anno più tardi. Ma non solo, allora non solo avrò la finestra da 18 mesi anziché da 12, ma poi appunto il requisito è quello peggiorativo dei 59. Paradossalmente se ho 34 anni e 11 mesi da dipendente e un mese da commerciante, quell'unico mese, caro, mi costa perché mi porta ai 59 e ai 18 mesi di finestra. Ecco qua le risposte che abbiamo dato a tutti coloro che ritengono che stiamo parlando di un regime di grandissimo vantaggio e per tutte le donne che appunto intendono fare richiesta di adesione ad Opzione Donna. Io farei una domanda machiavellica ad Antonello Orlando. Ma che in 3 minuti... Ma se una donna ha preso la laurea e adesso volesse sfruttare il riscatto e così raggiungerebbe al 2019 i famosi 35 anni riscattando gli anni di laurea? No, non si può. Sana che Mauro, hai fatto delle bellissime letture, la circolare 6/2020 da un lato ci ha confermato che il riscatto consente di porre retroattivamente il requisito alle nostre spalle, quindi se ne avevo 31 e grazie al riscatto di laurea arrivo a 35 posso assolutamente far decorrere la mia pensione. Ma la cosa più importante, piccolo spoiler, è che una donna che sta per bere l'amaro calice dell'Opzione Donna, abbracciando la fede monoteistica del regime contributivo, un po' pauperista francescana, se vogliamo, ha almeno la possibilità di comprare gli anni del riscatto con gli sconti, col Black Friday del riscatto agevolato. Sì, perché lì c'è appunto questo riscatto agevolato, lo ricordiamo, ne abbiamo parlato, abbiamo dedicato un'intera puntata proprio con Antonello Orlando, il riscatto agevolato cosiddetto light della laurea, che può essere fatto anche se si sono sostenuti gli studi universitari prima del 1996, è stata la grande apertura dell'ultima circolare IMSS. Allora hai capito, Deborah, si può anche fare questa composizione, questo bouquet di contributi, mi viene da ma dire. Ma si può fare anche in via successiva la percezione dell'assegno, perché ci sono delle ascoltatrici, credo, che ci chiedono se una volta che si ottiene il trattamento pensionistico con Opzione Donna si può poi continuare a lavorare, perché effettivamente dal punto di vista anagrafico la pensione si ottiene quando si è ancora piuttosto giovani, direi. Se qualcuno ha ancora la forza di farlo può continuare a lavorare, a che condizioni, Antonello? Sì, assolutamente, rispetto alla quota 100 che sappiamo mette delle catene, Opzione Donna è assolutamente più permissiva, quindi sì. Diciamo che è un po' un buco normativo perché non abbiamo norme che asseverano in modo esplicito la cumulabilità reddituale con redditi di lavoro dipendente autonomo. È un silenzio assenso. Esatto, anche perché direi che, come diceva giustamente la collega Barbieri, sono praticamente 16 anni quasi di sperimentazione, direi che se non hanno mai, così come abbiamo notizia, contestato contemporanea percezione di redditi, a questo punto direi che è un po' troppo tardi per farlo, quindi abbiamo troppi casi consolidati in cui nulla è stato eccepito dall'INPS, quindi cumulate. Ciò che non è vietato è permesso. Abbiamo un caso di un ascoltatore, abbiamo però un minuto. Melchiorre ci ha chiamato da Trapani, ha un caso un po' particolare. Buongiorno, sì. Melchiorre, buongiorno. Dottor Orlando, le posso fare una domanda? Prego, la faccia senz'altro. Guardi, io ho mia moglie che ha 62 anni e lavora in un'azienda che cucinano lì per gli ospedali, le ditte e cose. Sì. In una ditta. E ha 62 anni. Io sono un invalido 100%, non di cecità, sono un cieco. Sì. Oh, mia moglie potrebbe, ci ha detto la dottore di lavoro, dice lei c'è l'opzione donna, non può andare in pensione. Mia moglie, ci siamo informate allora. Grazie Melchiorre, andiamo subito da Antonello. Orlando. È una condizione avere il coniuge invalido? No, purtroppo no, perché in realtà le informazioni che ci manca sono i contributi. Non sapendo se ha 35 anni i contributi, purtroppo questo non è la essere caregiver. Però se gliel'ha suggerito l'azienda, forse perché questa signora ce li ha, chissà. Allora, diciamo questo, io vedrei bene la verifica del numero di contributi, perché al di là dell'età anagrafica, se avesse 41 anni di contributi, avesse cominciato a lavorare da giovane, cioè l'opzione per i cosiddetti lavoratori precoci che prevede proprio l'essere caregiver, cioè Melchiorre ci scriva duedidenari@radio24.it. Grazie a Francesca Barbieri per l'aiuto, grazie ad Antonello Orlando e grazie a